Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Con l'intervento da parte del governo prima e del Parlamento poi sulla commissione di massimo scoperto, che impedisce alle banche di applicarla per gli sconfini di conto inferiori ai 30 giorni, ha fatto sì che gli istituti di credito inventassero una nuova pillola di saggezza bancaria, la commissione sugli affidamenti bancari. Prima di entrare nel merito di questa nuovissima commissione, vorrei sottolineare quale enorme perdita sia stata per le banche l'allungamento a 30 giorni per l'applicazione della commissione di massimo scoperto. Eh già, mentre prima era sufficiente un solo giorno di sconfino e al cliente veniva addebitato un importo spropositato, magari causato da un errato calcolo della valuta di accredito di un assegno o di un bonifico, ora alle banche tale potere è stato finalmente tolto e così la maggior parte dei clienti non sconfina più. Povere queste banche che, tartassate dal governo precedente e da quello attuale, indifferenti ai regali ricevuti tramite i bond Tremonti o i crediti d'imposta per i mutui a tasso variabile, si sono sentite messe alle strette e, sempre nel rispetto delle leggi, hanno creato la commissione sugli affidamenti bancari. Che cos'è questa commissione? In pratica, la banca in questo modo chiede soldi a tutti coloro che hanno un fido. E sebbene prima i clienti non fossero minimamente colpiti dalla commissione di massimo scoperto, ora trimestralmente devono versare alla banca una percentuale sull'importo affidato. Ecco un esempio. Un affidamento di 100.000 euro può costare da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 2.000 euro all'anno. A questo punto, se ci pensiamo bene, è stato un bene per le banche la soppressione della commissione di massimo scoperto, perché questa nuova commissione frutta loro molto, ma molto di più. Un genio chi l'ha inventata. La versione ufficiale che forniscono le banche, quando si fanno obiezioni in merito a questa nuova commissione, è che a causa di Basilea, la banca deve versare una percentuale sugli affidi che concede ai propri clienti alla Banca d'Italia e, per evitare di pagare su fidi che non vengono utilizzati, applica questa spesa proprio per scoraggiare i clienti a richiedere fidi eccessivi rispetto alla reale necessità. E alla mia domanda: una volta individuato il fido corretto, la possiamo togliere questa commissione? La risposta della banca è stata: no, non è possibile. Bravissimi, fatta la legge, trovato l'inganno. Eh già, perché se il governo vi mette i bastoni fra le ruote, voi sapete bene dove andare a pescare le entrate perse, ma alla fine chi ci rimette siamo sempre e solo noi. Ma attenzione, mie care banche, continuate a tartassarci e alla fine i soldi li metteremo sotto il materasso e poi voi, finalmente, vi metterete in cerca di un vero lavoro. Carla, Padova. Ho ascoltato la trasmissione nella quale si dibatteva sull'opportunità o meno di usare un linguaggio colorito per commentare la vicenda sui festini che tiene banco in questi giorni. Io vorrei essere un po' demagogica e chiedere: non è che usando certi termini con l'intento di offendere le donne a cui sono rivolti, in realtà offendiamo le prostitute? Anche Grillo nel suo intervento al Senato ha usato la parola zoccole e le parlamentari si sono indignate. A mio avviso, anche le prostitute avevano titolarità per farlo. Non tutte le parlamentari sono zoccole, così come non tutte le zoccole diventano parlamentari. Secondo una tradizione consolidata, esistono due categorie di prostitute: quelle che scelgono la professione autonomamente e quelle che invece vengono rapite, brutalizzate, minacciate, private del passaporto e costrette a prostituirsi, pena violenze terribili e spesso anche la morte. Nel primo caso non vedo dove sia l'offesa. Se si vende il proprio corpo in piena coscienza per denaro o per un seggio in Parlamento, la differenza risiede solo nel valore finale ricavato. Chi siamo noi per giudicare? Casomai, dovremmo capire perché molti uomini abbiano bisogno di pagare il sesso e perché molti uomini abbiano fatto precipitare così in basso la nostra politica. Se invece si vende il proprio corpo perché un'organizzazione criminale ci costringe a farlo, schiavizzandoci e minacciandoci, allora dovremmo provare pietà e compassione per le ragazze che sono vittime di questo. Con ciò, non voglio assolvere lo squallido commercio di corpi ed anime che è emerso da questa inchiesta. Non ho giudizi morali da propinare, anche se rimane lo sconcerto di chi vede persone predicare bene e razzolare male. Vorrei soltanto sottolineare, ancora una volta, un modo di pensare molto maschilista, che divide le donne in due semplici categorie: puttane e non. Scusate, ma sono del 64 e sono ancorata a vecchi schemi mentali. Questa sì che è una parolaccia. Daniela. Leggo sull'ultimo numero di Famiglia Cristiana: la malattia può essere un mattone fondamentale per la vita, perché ci fa simili a Cristo, che ha patito ogni forma di sofferenza. La vita è sempre un dono, anche quando siamo malati. Qualche osservazione in merito, secondo ragione e secondo il Vangelo. La malattia ci fa simili a Cristo. Anche se fosse vero, che facciamo? Diciamo che bella la malattia sia la benvenuta? Il fatto è però che non è vero. La somiglianza a Cristo è nella forma, ma non nella sostanza. Gesù godeva di ottima salute, mangiava, beveva ed era ben vestito. La sofferenza, in qualche modo, Gesù se la cercò, ma non per il gusto di soffrire, come hanno fatto alcuni santi, ma per necessità. Fu lui a dirlo. È necessario che il Figlio dell'uomo soffra molto, sia messo a morte. La sofferenza del Cristo aveva uno scopo, la salvezza dell'umanità. Che la malattia abbia questo scopo è un concetto che non trova fondamento alcuno nel Vangelo e contrasta con la ragione. Il sacrificio del Cristo fu unico e irripetibile. La vita è sempre un dono. La vita terrena dovrebbe essere un dono, ma pare che questo dono, come una bella torta, alle volte riesca male, oppure vada a male, terribilmente a male. Ed affermare che una torta rancida, amara, disgustosa sia un dono di Dio e che sia buona è un'offesa a Dio e un'offesa alla ragione. Francesca. Famiglia Cristiana, con grande enfasi inquisitoria e fustigatoria di antica memoria, non perde occasione per attaccare Berlusconi. Pur considerando il fatto che, a quanto è emerso finora, Berlusconi appare più come vittima che come attore, ritengo che l'impegno di Famiglia Cristiana, nella nuova veste di fustigatore, sarebbe più credibile se queste iniziative le avesse assunte per i più tristi accadimenti svoltisi all'interno della comunità cristiana. Non ho notato tanto fervore moralistico per avvenimenti molto più gravi. Non mi riferisco solo alla gravissima questione dei preti pedofili, di cui si è iniziato a parlare solo dopo che la magistratura era intervenuta più volte. Mi riferisco soprattutto al preoccupante, sconcertante silenzio sulla sepoltura di Renatino, Enrico De Pedis, che era uno dei più efferrati criminali della banda della Magliana. È stato sepolto nella Basilica di Sant'Apollinare, assieme a martiri e vescovi della Chiesa. Un privilegio assurdo per un criminale. La sepoltura poi è tornata anche d'attualità per alcune trasmissioni di Chi l'ha visto, che ha riproposto la problematica piena di incognite e ingiustificati silenzi. La magistratura italiana però non può intervenire perché Sant'Apollinare rientra nelle sedi protette dal concordato e non c'è nessuna autorizzazione delle autorità ecclesiastiche. Forse quelli di Famiglia Cristiana ritengono che per salvare la cristianità sia sufficiente attaccare gli incontri presumibilmente sconvenienti di Berlusconi e sorvolare su altri ben più gravi? Anna, Roma. La decisione del Consiglio Provinciale di Roma di collocare dei distributori automatici di condom negli istituti superiori dimostra chiaramente quale idee abbiano del sesso una parte dei nostri politici. Per loro il sesso è un problema sanitario e quindi come tale va gestito. Il rischio sono le malattie, non altro. Proviamo ad aggiungere una dimensione a questa visione così ristretta del problema. A scuola si va per imparare, si acquisiscono nozioni e si definiscono comportamenti che poi lasceranno traccia per il resto della vita. Se distribuiamo condom, presenteremo loro il sesso come una pratica a rischio e non come una bellissima esperienza del tutto sicura ed esaltante, se condivisa con la persona giusta, avendo un serio progetto di vita insieme. Chi si conosce e si fa conoscere bene non trasmette alcuna infezione perché ha rapporti sessuali responsabili, non certo roba occasionale per puro sfogo. Quindi, l'unico serio rischio di infezione che corre una persona responsabile è quello di scoprire l'amore. E se questo c'è, si pensa al sesso per farne l'uso che la natura prevede senza alcuna barriera, assumendosi fino in fondo le conseguenze di un atto così coinvolgente. Il sesso non è merce usa e getta, come invece la prostituzione ci insegna. La strada per la prevenzione è solo questa e mette al sicuro da esperienze banali e da problemi sanitari. Così, proviamo a pensarci, cambia tutto. Questa è semplicemente ecologia del sesso, cioè rispetto della natura delle cose. Queste considerazioni non hanno nulla di moralistico, perché capire e rispettare il fine delle cose è proprio di chi esercita la ragione e nulla più. L'ecologia del sesso mi porta a dire no al condom nelle scuole. Lettera firmata. Sono docente di religione nei licei statali da 28 anni, attualmente in un liceo scientifico di Roma, e vi posso assicurare che da anni nelle scuole sono presenti programmi di salute sessuale, volti alla conoscenza delle malattie sessualmente trasmesse in accordo con le ASL locali. Gli operatori, previa approvazione del collegio docenti, attuano incontri nelle classi senza la presenza degli insegnanti e quello finale al consultorio. Tre anni fa, una classe mi chiese di rimanere presente e così ho assistito ad una lezione della sedicente esperta sull'argomento. Oltre a non sapere relazionarsi con i ragazzi, ha detto una serie di banalità, recuperabili in qualsiasi giornalino per teenager, volte all'uso del preservativo e nulla più. I ragazzi erano tra l'irritato e l'annoiato e alla fine della lezione ho fatto una critica all'esperta. Gli studenti mi dissero poi che da anni, a cadenze periodiche, quindi dalla scuola dell'obbligo, erano fatti oggetto di tali interventi e le ragazze in particolare ne erano seccate e dicevano: «Ma pensano che non facciamo altro tutto il giorno da quando abbiamo 10 anni?» Con questi ragazzi abbiamo fatto poi un bel percorso didattico sull'argomento. Nelle sedi opportune, consiglio di classe, commissione, piano offerta formativa, ho fatto presente che forse bisognava offrire qualcosa di meglio ai nostri allievi. Ma il solito collega di sinistra ha ravvisato in ciò una censura. E così tutto è rimasto uguale e nessuno osa sollevare la benché minima critica all'educazione sessuale di Stato e quest'ultima proposta ne è il logico approdo finale. Nella drammatica emergenza educativa che tutti a parole denunciano, l'idea del preservativo a scuola non fa che ridurre l'adolescente e la sua sete di assoluto a un esserino da nulla, capace solo di pulsioni ormonali incontenibili da assecondare come un fastidioso momento della crescita. Ovviamente, alla base di tutto ciò, c'è l'idea di essere umano come pura funzione, capace di aspirazioni e desideri nobili e puri, la pulce di terra che deve essere ben addomesticata, funzionale al potere del consumismo. Ma anche noi cattolici, quanti proclami, bellissimi e profondi ragionamenti, nessuno che sia stato però trasformato in progetto da presentare a tappeto negli ambiti educativi. Dove sono gli appartenenti a movimenti, parrocchie, eccetera, che fanno bellissimi convegni e tavole rotonde tutte ad uso interno? Io vado avanti per la mia strada e continuo a lavorare con i miei modesti mezzi sull'argomento. Ma che fatica e quanta rassegnazione da parte di tutti. Maria. A scuola, come nel pensiero, andrebbe reintrodotto il principio di realtà, classicamente inteso. È la realtà umana che va osservata e che deve dirigere il pensiero. I cattolici sostengono che solo la rivelazione aiuti in questa comprensione, che è comunque disponibile a tutti. Quindi, anzitutto, si tratta di deideologizzare e poi serenamente guardare che cosa genera serenità, pace e futuro nelle scelte umane. In quest'ottica, ai giovani dobbiamo presentare, anzitutto, le scelte che generano la sfida e la gioia di vivere, che sono il rispetto, la fedeltà e la dedizione all'altro. Quando questo non avviene e viceversa accettiamo il dato di fatto della promiscuità sessuale, insegnando a evitare i fastidi, noi violiamo il principio di realtà, avviando i giovani verso un mare di guai. Offrire il preservativo nei distributori collocati nelle scuole è come dire che c'è un espediente per evitare i fastidi e continuare a liberare gli istinti evitando di conoscere, accettare e attuare la realtà umana che è razionalità e nella sua bellezza richiede attesa, progetto, fedeltà. Ma la realtà è il dato ultimo che non si lascia aggirare. Lettera firmata. Sono una cittadina sconcertata dalla violenza e dall'odio che stanno scaturendo da questa campagna diffamatoria contro il Presidente del Consiglio, che di politico, secondo me, non ha proprio niente. Berlusconi, che piaccia o no, ha vinto senza alcun dubbio le elezioni politiche, europee e provinciali, e mi domando perché io dovrei togliere la mia fiducia a lui e riporla nel PD, che ha perso senza alcun dubbio tutte e tre le tornate elettorali. E dovrei oltretutto dare la mia fiducia ad un'opposizione che non ha saputo governare né il paese né se stessa e che cerca di riconquistare il campo e la fiducia della gente attraverso la calunnia e il pettegolezzo. Mi domando se sia questo che certa stampa di sinistra ci sta proponendo, appoggiando politici che sono armati soltanto di rabbia e nessun programma politico credibile alternativo. Io sono indignata e preoccupata da questo tipo di opposizione che produce solo odio e prepara il terreno a scontri sociali ideologici distruttivi senza alcuno sbocco. Silvana, Milano. Gentilissimo direttore, la crisi finanziaria, per quanto congiunturale, sappiamo tutti che è stata in buona parte colpa di atteggiamenti rischiosi e a suo tempo remunerativi delle banche, soprattutto americane ma anche europee ed italiane, tanto che il nostro governo ha dovuto sborsare non pochi euro dei contribuenti per salvarne alcune. Siamo tutti d'accordo che il fallimento di una banca è un male per tutti, proprio perché queste hanno un ruolo economico-sociale fondamentale. Sono alla base dell'economia di impresa e non solo, e quindi di tutto il ciclo economico-finanziario. Accanto a questa considerazione, rammento che governo, Confindustria e tanti altri stanno chiedendo alle banche stesse di erogare credito, in particolar modo a medie e piccole imprese. La realtà dei fatti di tutti i giorni è esattamente all'opposto. Tutte le banche, salvo forse quelle di credito cooperativo, non sono disposte a finanziare alcun progetto di piccoli o giovani imprenditori. E non parlo di bocciatura del business plan proposto, ma di risposta secca e precisa. Noi finanziamo solo imprese consolidate con grosse garanzie. Ma come? Non abbiamo salvato le banche con denaro pubblico anche per rilanciare l'economia e salvaguardare il sistema economico? Non è vero che tutti i giorni il Presidente del Consiglio ci dice che è sufficiente avere buona volontà e idee innovative e ci invita a creare impresa? Ma com'è possibile farlo senza il credito finanziario? Non sono anti-berlusconiano, né antidemocratico, ma i conti non mi tornano. Aggiungo, invece di proclamare il rilancio dei consumi, perché non rilanciamo direttamente il flusso di denaro, magari partendo dal debito pubblico che per buona parte è interno? Non è possibile che la media dei pagamenti degli enti pubblici sia 180 giorni. Ridurre questo a 30-60 giorni vorrebbe dire rilanciare immediatamente l'economia. Purtroppo sento parlare poco di questo assurdo modo di affrontare la grave situazione economico-finanziaria, mentre sento parlare molto di pettegolezzi e bisticci di basso livello. Caro direttore, secondo me è questo di cui dovrebbe occuparsi la politica come principale problema contingente. Ma ripeto, ne sento parlare troppo poco e soprattutto mai dai politici. Ci aiuti lei se può. Nicola. Caro Nicola, il ruolo delle banche è certamente essenziale per il corretto funzionamento del sistema economico, così come il ruolo dello Stato, sia per dettare e far rispettare le regole, sia per la corretta gestione di tutte le attività, e sono molte, che fanno capo al settore pubblico. Ebbene, quello che lei sottolinea è di grande importanza. Il rispetto dei termini di pagamento è un elemento essenziale per mantenere efficiente il mercato, per rendere dinamico il circolo virtuoso tra attività economica, produzione, salari, reddito, consumi. Se il primo a non rispettare le regole è proprio lo Stato, ecco che il funzionamento del sistema economico non può che risentirne, soprattutto in un paese come l'Italia, dove metà del reddito nazionale fa capo al settore pubblico. Insieme al richiamo all'efficienza dovrebbe quindi venire il buon esempio. Anche perché non si può sperare che la giustizia, anche questa amministrata dallo Stato, sia in grado di ristabilire un'efficienza perduta. Una causa civile a durata media di quasi 7 anni. In 7 anni fa in tempo a cambiare il mondo e a soffocare l'economia di un paese. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.